FK, buonasera Claudio, buonasera a tutti, buonasera anche a te Roberto. Antonio da questa parte, da Sassari. Ciao Antonio, ben sentito, ti dirà già Antonino, avanti Antonio per Antonio. Ciao Antonio, ben sentito, avanti chiedo. Uguale qua, sì, più o meno sei lo stesso Santiago, se Santiago no per Radio 5, dai, va benissimo, va. Il più piccolino sono io, capito? Sono io il più piccolino, riprendo io. Comunque Claudio, ti faccio un esempio quanto è importante quel trimerino, se c'è questa resistenza variabile. Io avevo un giradischi anni fa, l'avevo acquistato nuovo, quando c'era ancora Mancuni a Olbia, che vendeva, stava svendendo tutta la merce, c'era questo giradischi trazione diretta, 33 45 giri della TC, c'era ancora questa cosa, lo vado a provare. Cacchetto, ma come mai sta girando così piano questo giradischi? Cioè, siccome c'era lo strobo che ti dettava la velocità, ho detto, no? Aspetta, metto quel dubbio sotto, ho tolto l'ho rovesciato, ho visto ci sono dei trimerini sotto di regolazione, c'è scritto 33 45, ho provato a regolarlo, gli ho sfruttato lo spray per il contratto, ho fatto la regolazione, perfetto. Per cui anche uno smitter, stiamo parlando di una cosa un po' più complicata, che controllava la velocità del coso, del giradischi, per cui una cosa molto più affidabile, devo dire, le velocità sono importanti, per cui anche lo smitter molte volte basta con la resistenza che ha perso il valore, diciamo, in ohm, oppure c'è inchiodata, non so, per qualunque cosa, molte volte risolve il problema con niente, lo provi un po' a muovere, a meno che non siano con molte volte li mettono la cera lacca sopra ed è un po' più problematico quello smalto per non farle toccare, però se non c'è niente riesce a individuare la posizione di quel trimerino, che è una resistenza variabile, però è povero, molte volte si riesce a risolvere, se no si fa prima a tirarlo via, si mette nuovo, si va alla GBC e molte volte si risolve il problema, a meno che non sia il problema sullo smitter, che molte volte lo smitter se gli ha dato un segnale troppo forte o qualunque cosa, oppure il tempo che è rimasto troppo fermo, l'inerzia, la forza per farlo muovere non ce la fa più, perché c'è una bobinetta con un campo magnetico per cui non riesce più a farlo andare e conviene sostituirlo se si trova. Ok, riprendi tu Claudio. Di questo campo magnetico si riduce, mentre con l'intrasmissione gli dai piena potenza, riesce a eccitarlo, diciamo, questo ago, riesce a farlo muovere, mentre in ricezione, che tra l'altro si utilizza un altro circuito, può essere anche molte volte un condensatore che magari non gli dà quella quantità di energia necessaria per farlo salire, possono essere tante cose, io non sono un tecnico, però sto andando per il coso di logica. È una cosa comunque che non pregiudica niente, se il segnale arriva bene, riesci, la radio non è sorda, per dire, senti un segnale debole, riesci a tirarlo fuori come una radio che te ne tira 9 di cosa, di S, per cui la radio vuol dire che sta funzionando, è solo problema di Smith. È come le capsule microfoniche, quando rimangono troppo tempo ferme, col tempo si incolla, non hanno più l'elasticità, il campo magnetico che si forma all'interno della bobina della capsula non ha l'energia per fartela oscillare. È così un altoparlante, col tempo infatti gli altoparlanti, anche se il campo magnetico è molto più grande, col tempo non hanno le stesse prestazioni che possono avere quando sono appena costruiti nuovi, infatti molte volte dici cacchio, le casse 10 anni fa suonavano benissimo, adesso non suonano più bene come prima, sono leggermente carenti di bassi, è normale, perdi un po' di coso, di magnetismo. Scusatemi un attimo, io riprendo subito, riprendete voi, vai Claudio. stavo guardando invece quello del Bricht, lì c'è anche il ricevitore, stessa marca, andrà bene. Di quella che ti ho mandato la foto, non ce l'ho, capito? Ho lo spinotto e mi manca tutto il resto. Stiamo cantando il karaoke, andrebbe. Ho mandato un messaggio alla piccola, quando qua mi ha detto no, non posso entrare perché sto cantando col karaoke. Andrebbe, e vabbè. Lo scrivo ok direttamente, faccio prima. Bene, bene, con X ha fatto Roberto, siamo rimasti dietro, chi c'è altro? Caffa. Un Brector ce l'avevo, anche io ce l'avevamo. Però era un ricevitore, era, funzionava molto, molto, molto bene. E ce l'ho anch'io il ricevitore, più che c'ho anche il baracchino. Davvero? Caffa, due svizzero, c'è cioè pensimetro, un completo. No, non ce l'ho mai avuto quello, ho avuto il ricevitore di quella marca. E quel ricevitore preso la CBC l'ho comprato, non mi ricordo la verità, quanto l'ho pagato, se era 90 o 110 euro, non mi ricordo. Mentre l'altro con gli scambi l'ho avuto, con il baracchino. Ma anche io mai quella marca, ma il ricevitore sì, funzionava bene, funzionava. E ne ho avuto anche Unitet, qualcosa del genere. Claudio, ma cos'è? Marca fresca? Per la Lombrina. Beh, comunque ha un piccolo problema. Qualcuno ha provato, non c'è riuscito. Vabbè, non è che più tecnico o tecnico l'ha provato, un po' se ne intende, però. Niente, bisogna farlo vedere a uno che se ne intende. A me dai 50 euro ti ho detto, cioè di voi 50 euro. Claudio, per 50 euro ti posso dare solo a mano qua. Ma se non funziona, ragazzo, ma li sento io, non mi dice la radio, voi già invece che paga. Ho 150 quanti la paga da Gianni. 100 euro vale quella radio. Non funzionante 50 euro. Tu cosa ne sai cosa c'è da fare con la radio? Ce l'ho già detto. Bisogna prima vedere cosa c'è da fare. Fare un preventivo e vedere cosa c'è da fare. C'è il preventivo per dire se c'è i finali bruciati. Grazie. Allora io già devo poi la porto c'è la radio. Claudio, si può vedere anche un euro. Non me ne ha fatti un danno, non tengo per bellezza. No, basta, dimmi, la tengo per bellezza, siccome hai detto che la davi, quindi io ti avevo fatto la proposta, prima hai detto una cosa, quindi hai detto un'altra, tutto qua, te lo sto rimanendo, capito? Quella te vale 50 euro, capito? Perché in vita che compro io a 100 euro, sono tutti funzionanti, tu non puoi dare una radio, non sto dicendo nel tuo caso, ma nessuno può dare una radio non funzionante a prezzo pieno. È lì il problema. A meno che non sai che cos'è, guarda, non funziona questo, ci vogliono 10 euro, perfetto. Sì. Ma se non sai che cos'è, può avere anche i finali bruciati, può avere tante altre cose, ci vogliono soldini per metterla a posto. E quindi è chiaro che poi il prezzo sale, tutto qua. Vabbè, io ho fatto l'anno sempre con 574, inverto un po' il 574, oppure l'Inuit, oppure il Pony. Adesso ho ricambiato, sto andando col Midland 78574. Ok, riprendi. Ma stavo dicendo male, okay. Ogni tanto sentiva che stavi strappando. Sto strappando? Come sto strappando? Vuol dire troppo alta la voce. Sentiva tutto un fischio sottofondo. Claudio, anche tu lo ricevi così a Spalviera? così non c'è nessun rumore, giusto? A meno che non siano rumori delle altre radio che sono accese. Così è buono. Ecco, il rumore del sito. Io. Hai capito? Ecco, non lo fa rinescare più, perché ti tocca anche la radio. Non è niente, non ti preoccupare. È come tocco il correttore del microfono, perché ci vuole 6 o 8 volte la barra dal muro. Ma domani mattina le riattacco, sposto il DAC, le riattacco la barra filettata in rame. Metto le masse a queste radio, perché purtroppo è così, c'è la 220 attaccata e quindi c'è sempre qualche rientro. Va bene, dai, non è niente di grave, risolvibile, va bene, ok, avanti Roberto, riprendi. No, questo non è più il Pony, Pony l'ho spento, questo è il 78574 della Midland. Bianco per me, ce la risentiamo dopo. Ok, Antonio. Comunque, sta dicendo Albert che è tedesca, mi Claudio di Muros. Bianco per far parlare, chi è entrato adesso? Ma Giulio, l'ho sentito una voce? No, è Gianni, KP2, perché Claudio si è spostato. Ha rilanciato il Claudio, ma Claudio non l'ha ripreso. No, no, Gianni già l'ho sentito, ma mi sembrava sotto qualcuno che stava cercando di entrare. Ciao Gianni, ben sentito anche a te. Guardate come quello di Claudio, così. io sono molto profano su queste cose, quindi vi ascolto ben volentieri. Avanti Roberto. Ehi, allora, cosa? Gianni già è molto, come si chiama, addentrato su questi vecchi baracchini valvolari, ricevitori, trasmettitori. Ho visto, ne ha sistemato uno, la ricrappa che gli avevo dato io, è riuscito a metterlo in funzione, e oltre a quello ne avrà fatto sicuramente molti altri, dai. E quando uno c'ha passione riesce poi a trovare piano piano il problema e a risolverlo. Ok, Claudio, vicino a te ancora, Gianni o è andato via? Ok, dai, facciamo riprendere a Tonino, avanti Tonino, poi c'era anche Claudio, non ho capito se si è allontanato, Claudio Torre di Controllo, ci sei? Sì, sono qua, ma io sono vai e vieni. Sì Gianni, io ti ho richiamato domenica, cioè cosa sto dicendo? Ti ho richiamato ieri mattina. Ti ho richiamato ieri mattina, però non mi ha risposto nessuno a casa. Ho capito già, però in questo momento sono bloccato. Non altri investimenti o altre cose che sto facendo, per il momento non ne compro altre di queste, dai. A meno che non ci sia qualche scambio, ma altrimenti niente. Grazie per l'info comunque, dai. Avanti Tonino, riprendi tu e fai girare. Io rimango un attimo in quel Rix perché sono da una stanza all'altra, dai, ci sentiamo dopo. Eccomi, sono rientrato. Ok Antonio. Sentito, adesso rimango qualche minuto che poi devo spostare da qua. Cosa vuoi dire? L'Albare, che comunque è un marchio tedesco. Infatti dal nome sembra proprio un tedesco. Ha fatto delle belle radio di tutti i generi, ha fatto forse anche l'imitazione del Saturn Echo, possibile? Boh, questo non lo so. Perché molte volte hanno la licenza per farlo, cioè cambiano solo il marchio, però magari all'interno è tutto uguale, non cambia niente. No, ma diciamo baracchini ne ho visto diversi. Stavo cercando Claudio quei due baracchini che stava vendendo Radio Su Plus, nuovi, funzionanti, te li danno garantiti di lì per un anno. Sono dei vecchi baracchini base, grossi, 20, non 23 canali, 12 canali sono, con l'altoparlante esterno. Uno era 60 e l'altro 80 euro. Bellini proprio, belle radio. Per quel prezzo erano convenienti, diciamo, si potevano prendere, considerando che li stai acquistando da un negozio affidabile. No, collegiare il trucco. Su Radio Supra c'è pieno di apparecchi a valvole, a Puglia. No, questo te lo stavo dicendo perché era, diciamo, anni 70 questo baracchino, 70-75 penso, guardando il considerando che avevano solo la M, non avevano ancora le FM. Per quello, no, ma valvolare, già guardo, se trovo qualcosa te le segnalo, non ti preoccupare. No, io di ricevitore a valvole c'ho quello trio della trio, marchiato trio, però è come Sciacchemo, la stessa cosa, quello con la bestiolina grande, enorme, quello c'ha una bella ricezione, soprattutto quando lo fai scaldare bene, me lo tieni acceso una mezz'oretta e si stabilizza termicamente, c'ha una bella ricezione, l'ascolto la notte, qua è capitato di ascoltare le HF, questo fa da 0 a 30 mi sembra, sì, da 0, sì, da 0 a 30, sì, sì, stavo dicendo fesserie, più c'ha le bande laterali, eccetera, c'ha l'accordatore d'antenna incorporato e il coso, l'amplificatore d'antenna, il preamplificatore d'antenna, e ti posso dire, è un po' macchinoso, perché lo devi conoscere per capire le bande, eccetera, però funziona più che bene, considerando che una radio ci avrà, io penso che sia degli anni 60 questo, funziona più che bene. Vedi che ti scalda parecchio. Caffa, io sto messaggiando, vai. Sto innescando con la campanata accesa. Ecco, l'ho abbassato. Stavo rispondendo a un amico al messaggio. Riprendete. Ehi, ok, facciamo riprendere Antonio, che è rientrato. Avanti, Antu. Caffa. Guarda, le valvole c'hanno di buono, ma cioè non sono molto caldo, cioè la voce è più naturale, l'ascolti meglio, poi anche il piacere di vedere queste cose illuminate, c'hanno una sensazione particolare, poi tengono meno, sono molto meno influenzati dai disturbi atmosferici, perché il transistor, questa radio a transistor, basta una scarichina subito si attira tutti i disturbi, mentre la valvola è un pochettino più selettiva, parliamo a parità di anno di costruzione, certo la tecnologia di adesso è tutta diversa, però se prendi una radio di 50 anni fa transistor con una a valvole di pari prezzo confrontata con la valvola è un pochettino più meno rumorosa, dai, da ascoltare. Sì, ma consuma molto di più, però sì, naturalmente la resa a livello di corrente, ma quando c'è una radio che ti consuma 80 watt a piena potenza, il transistor magari te ne consuma 40, siamo lì, non stiamo parlando di altre cose. Certo, se c'hai 2 kW di lineare, a quelle potenze lì devi avere per forza le valvole, il transistor non esiste, anzi esistono, ma costerebbe troppo costruirla, devi mettere una marea in serie di transistor per farle arrivare a quelle potenze. Infatti dopo una certa potenza tutti gli amplificatori sono tutti a valvole. Caffa. Cavolo, mi ha mandato un coso. Aspetta, dopo lo sento. Ti stavo dicendo. Sì, sì, è così. Però la valvola consuma sempre di più. Diciamo il discorso non è proprio così, perché tu a parità di potenza, se consumi 40 watt con una valvola, 40 watt per il sito, non cambia niente, è sempre quello il discorso. La resa, diciamo, il problema della valvola, che sono molto ingombranti, hanno necessità di tensioni elevate per funzionare, mentre col transistor, anzi a 12 volt, tu riesci a farlo funzionare, il circuito, la valvola deve per forza mettere tensioni alte, trasformatori pesanti, è solo questione di ingombro, però la valvola ha sempre il suo fascino, diciamo, è una cosa. Infatti in alta fedeltà gli apparecchi di un certo livello le stanno riscoprendo le valvole, è una cosa che fa anche piacere a ascoltarle, cioè non sono molto più caldo, più naturale, soprattutto se ascolti alta fedeltà, la voce umana e cose del genere, come te la dà la valvola, raramente col transistor riesci ad arrivarci. Ma io per esempio non sono d'accordo con quelli che spendono tanti soldi per comprare questi cosi a valvola. L'hai visto su Audio Costruzione? Cazzo, gente che si spende anche 10.000 euro, cioè 10.000 euro compro un impianto serio, non compro questa roba, no? Tu stai dicendo 10.000 euro, se ti faccio vedere gli impianti che costano milioni di euro, non 10.000 euro, c'è gente, è qua, c'ho amici che li hanno spesi anche 20.000, 25.000 euro per farci l'impianto nella macchina, se parliamo di cose allucinanti, già ce n'è, se tu prendi, c'è gente che prende per un lettore CD che spende 15.000 euro, per il lettore CD poi c'è gente che spende 30.000 euro per le casse, poi se ti prendi certi tipi di cose, di amplificatori, non ne parliamo, ci sono anche amplificatori da milioni di euro. Potenze fuori dalla norma, sono delle costruzioni artigianali, eccetera eccetera, dipende tutto dai gusti, naturalmente così uno riesce a fare quello che riesce a permettere, naturalmente dipende da cosa devi fare e basta. Ci sono amplificatori adesso che sono quanto una scatoletta di sigarette e danno delle potenze spaventose che 20 anni fa erano impensabili, ci hanno delle rese allucinanti, però questa è la tecnologia. Io faccio vedere degli amplificatori che ho a casa, tu li vedi, cacchio, dico cos'è, tu vai, ne vedi un altro nuovo, te lo faccio vedere, dici, ma non è possibile che questo tiri tutta questa potenza e pesa 10 kg, 500 grammi. Ma cosa, cioè, per quello lì, cioè, io vedo questi impianti, sono sempre impianti di casa, so. Cioè io con quei soldi sto prendendo un impianto line rail, cioè, con le contrapalle, cazzo, che quando acceleri, cioè, oltretutto c'è un suono spettacolare, poi di una lampada, cioè, crema lo barazzo, quando acceleri, e c'è un suono spettacolare, e cosa ne vogliamo parlare, per quei soldi? Non so, adesso vado a vedere un concerto, ti guardi le casse, dice cos'è questo, ti metti a ridere, c'hanno una resa sonora che per dire 20 anni fa ce ne volevano 40 volte di più di casse, perché c'erano tutti quegli impianti caricati a tomba, è cambiata la tecnologia di tutto, è come il televisore, ti ricordi prima, televisori a tubo catodico pesavano 30 kg, adesso ci sono quelli ultrapiatti che pesano 3,5 kg, di dimensioni più grandi, consumano meno energia, resa luminosa maggiore, eccetera, è tutta una questione politica, però le valvole, considerando che sono pesanti, ingombranti e tutto quanto, c'hanno sempre gli estimatori, a me, io sono un fanatico delle valvole, però parliamo su alta fedeltà, sulle radio a valvole sinceramente non più di tanto, sì, ne ho una, la tengo perché mi piace averla, però non sono quello che va a ricercare i vecchi ricevitori a valvole eccetera, perché le valvole col tempo piano piano hanno necessità di manutenzioni, al contrario del transistor può stare 50 anni e non ha, diciamo, l'usura, a parte qualche componentistica tipo condensatori o cose del genere, però manopole di comando, però le valvole col tempo tendono a usurarsi, poi quando non le fai lavorare come devono lavorare, che le strappate ancora peggio e puoi fare del danno. Ok, vai Claudio Di Muro, a te e poi a Tonino. Tonino, sì, Tonino mi sa che si è allontanato, no, diciamo linea Collins costano un pochettino, dai, puoi trovare una linea Drake, Uniden, quelle ancora hanno prezzi ragionevoli, ma Collins, stiamo già parlando di apparecchi che se li fanno pagare più di un apparecchio moderno, eccetera, no, ce l'ho, ne avevo trovato uno e poi l'ho lasciato perdere, sono andato a riprenderlo, un prezzo di regalo al mercatino San Marcanda, ce l'aveva Gianfranco, quell'amico, e non sapevo neanche il valore di questa roba qua, ma ho detto, chiami 150 euro, c'aveva il trasmettitore, il ricevitore e l'alimentatore. Mi ha detto, ma adesso non me ne faccio niente. E poi la sera mi sono un po' venuto a Brescia e vado a prenderlo. Ho detto, guarda, questo vale molto di più, infatti cacca, sono venduti fare 400 euro tutti e tre i pezzi. E lui è un tuo amico, Gianfranco, è un po' amico, conoscente, amico è un'altra parola troppo grande, è un conoscente, dai, ho acquistato tanto da lui, diciamo, molte volte mi ha trattato discretamente, quando qualcosa di sconto me l'ha fatto, dai. E quello che sta facendo adesso, io lo conosco quando era ragioniere della Electrolux, in via Lombardo, su di fronte alla Banca Italia, lo conosco un giorno, quando ero in via Pascoli, praticamente lui abitava attaccato a me, dove c'è il negozio di forbici lì, capito, abita ancora lì. Lui ha fatto questa cosa che prima era lì, dove c'è la, il poligono, via poligono, e poi si è trasferito dove c'era carbone, via la Torres. Mangiò poco, gane molto, ma a me voleva tutti i mobili nuovi di mia suocera, mi aveva quantificato tutto, ma sto parlando di mobili nuovi, comprati da Guido Garau, allora, e aveva quantificato tutto 500 euro, ascolta, fa una cosa, non perdiamo l'amicizia per i soldi, non servono niente i soldi, oggi ci sono e domani no, l'amicizia può rimanere, quindi fa una cosa, Gianfranco, non ti boccio nulla, rimaniamo amici come siamo e va bene così, capito? Vabbè, i commercianti non trovate sono affari tu. Signore, io vi devo lasciare, devo fare cosa adesso? Un po' proseguo, ciao Claudio, Torre Controllo, Claudio Lamuro, su Tonino, se c'è ancora e tutti gli amici su questo canale. Io devo fare cosa, Mari, ci sentiamo domani mattina. Ciao ciao a tutti, buon proseguo. Ce la risentiamo alle prossimine. Ma la carica quando coincide. Avanti Tonino. Tonino? Ma Tonino non va più. Cappa. No, io questi cose a valvole non è che siano molto amante, la verità ti dico. Qualcosa c'è bello, qualche amplificatore così, ma di altre cose non è che sia molto amante. intake col microfono suo dell'apparecchio. E già va bene comunque, lo sai che è molto selettiva questa radio. Non prende disturbi, non prende, a confronto all'altro. Sia smagnetizzato. sta il K, e fai bene. Quelli di questa qua sono contento, perché ha, come si dice, c'è una specie di squelch che io sento solo a te. Sento. Non si sente quali... Capito? Sento a te chiaro. E non sento altri rumori. Se io lascio sta mic non sento altri rumori. E mi piace per quello questo tipo di radio. ricordo adesso, è passato parecchio tempo, è passato. Ma tu l'avevi suonata la fisarmonica, mi ricordo. sei più giovane di me, mi cavolo. Io ho 36 anni ma sono fuori di testa. Sì, aiuto, ma cosa gatto, 19:36, aiuto.